Con Gabriele Diverio, direttore della 18ª edizione del Glocal Film Festival a Torino, al Cinema Massimo, Museo del Cinema, dal 5 al 10 marzo 2019. Gabriele, ben trovato. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Per chi non conoscesse la manifestazione, raccontiamo cos'è. Sì, è un festival che si occupa di cinematografia regionale, quindi la mission dell'associazione che l'ha ideato, dell'associazione Piemonte Movie, è fare il punto ogni anno sulla produzione che ha a che fare con Torino e il Piemonte. Quindi i nostri core sono soprattutto cortometraggi e documentari, quindi siamo vicini a quella parte di produzione un po' più indipendente, quell'area del cinema che viene frequentata da chi muove i primi passi in questo settore, e poi abbiamo sempre focus, omaggi e approfondimenti. Allora, questa edizione come si caratterizza? Quante sono le opere proposte? Sono 59 film che diamo dal 5 di marzo al 10, sono come sempre un contenitore, noi siamo un contenitore di opere varie che vanno dal documentario, dalla fiction, al cortometraggio, come dicevo prima, al videoclip. Quest'anno l'edizione che abbiamo messo insieme è un'edizione molto pop, come abbiamo avuto modo di dire più volte, perché ci troviamo a compiere 18 anni, quindi entrare nell'anno della maturità, però non volevamo perdere un po' quella freschezza che avevamo agli inizi, e quindi abbiamo messo insieme un cartello di appuntamenti che dialogano con tante altre arti, come la musica, con la letteratura, col teatro, col cinema stesso, ovviamente. E quindi un'edizione veramente fresca. Ci sono sezioni, aree tematiche? Sì, certo, c'è Spazio Piemonte, che è la nostra sezione riservata ai cortometraggi, fino ai 30 minuti prodotti nel 2018, Panoramica Doc, che invece approfondisce la questione legata ai documentari lunghi, questo genere che sempre più per fortuna sta trovando spazio anche nella distribuzione in sala. Ci sono proiezioni speciali dedicate ai festival gemellati, al festival e associazioni gemellate, e ne abbiamo 10 sparpagliate per tutte le giornate di proiezione. Abbiamo degli approfondimenti, degli omaggi, uno dedicato a Enrico Vanzina, un altro dedicato a Remo Schellino, una proiezione speciale di film in prima assoluta come Bar Maffè, che è un film torinese che la città attende di vedere da un po'. Quest'anno per la prima volta consegniamo un premio a cui teniamo molto, che è il premio Prospettiva, che va a Beatrice Arnera, questa giovane attrice che si sta mettendo in luce tra cinema e TV. E poi ovviamente, ultimo ma non ultimo, all'inaugurazione di martedì 5 assegneremo il premio riservato ad Alberto Stepagna Rocca, che è la nostra omaggiata dell'anno, e poi faremo vedere Nirvana, film cult di Gabriele Salvatore. Considerato che siamo alla 18ª edizione, ci siamo sentiti anche lo scorso anno, volevo chiederti lo stato di salute della cinematografia piemontese. Ma è molto, molto buona, per fortuna nostra ovviamente. Abbiamo sempre dei numeri molto alti, in fase di iscrizione i cortometraggi sono stati 111 quest'anno e noi ne avremo in finale 20. I documentari arrivati erano una quarantina e noi abbiamo una selezione finale di 6. Quindi diciamo che ovviamente immaginando di non essere riusciti a intercettare tutto il girato, perché qualcosa ci sfugge sempre, direi che come sempre il Piemonte si dimostra una terra viva per quanto riguarda il cinema, ovviamente e giustamente, anche perché insomma è la regione in cui c'è il Museo Nazionale del Cinema, il Cinema Massimo, tanti festival, il Politecnico, il Dance, insomma, una regione che per il cinema ha sempre avuto un debole. Rispetto alla distribuzione? Qui paghiamo un po' come tutta Italia, l'eterna questione delle sale, che sono poche, che vengono prese, portate via come spazi da chi ha i grandi numeri e quindi vengono un po' penalizzati i film minori. Da questo punto di vista, insomma, non per vantarsi, ma direi che l'associazione Piemonte Movie fa un ottimo lavoro di sostegno e di aiuto alle realtà giovani e indipendenti, perché grazie al nostro progetto Movie Tellers, che è un progetto itinerante su tutte le province del Piemonte, e grazie ai presidi, che sono tutte città e paesi che ci contattano per avere una programmazione diversa, riusciamo ogni anno a organizzare decine e decine e decine di proiezioni, portando in giro i film che transitano al Glocal. Quindi dal Glocal poi ogni strada ci porta in giro per il Piemonte, quindi siamo contenti di dare una mano concreta. a chi realizza film. Ci lasci tutti i riferimenti web? Certo, allora potete trovare le informazioni più aggiornate sempre sulla nostra pagina Facebook, che è quindi quella dell'Associazione Piemonte Movie, quindi se voi digitate Piemonte Movie troverete anche le attività del Glocal, altrimenti il sito piemontemovie.com, poi siamo anche su Twitter, Instagram, YouTube, ma diciamo che Facebook è la cartina di tornasole per non perdervi neanche uno dei nostri appuntamenti. Allora, ricordiamo la 18ª edizione del Glocal Film Festival a Torino, al Cinema Massimo, Museo Nazionale del Cinema, dal 5 al 10 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore Gabriele Diverio. Un abbraccio, in Grazie bocca a voi. al lupo e a presto! Crepi e a presto, ci vediamo in sala.